A Tempo di Sport di Gigi Garanzini. L'appuntamento con il martedì internazionale prevede oggi la vigilia del quarto turno di Champions League, la quarta giornata, e un'intervista di Platini al Daily Telegraph che sta facendo un discreto rumore. Bentornato Fabio Tavelli. E Gigi, un saluto a tutti. Senti un po' che cosa ha detto Platini al Daily Telegraph, in estrema sintesi, introducendo cose non inedite, ma insomma dette in maniera un pochino più... un pochino più aggressiva, insomma. Introducendo nuove regole, proteggeremo gli investimenti di Abramovic, Moratti e Glazer, ha detto Platini. Sono sicuro che vorrebbero vendere i loro club, ma chi mai sarebbe così stupido da acquistare club così indebitati? Il criterio che seguiremo è che chi vorrà partecipare alle nostre competizioni europee non potrà spendere più di quanto incassa. Tutti i proprietari mi hanno chiesto una migliore filosofia, più trasparenza. In Germania i debiti non sono consentiti, in Inghilterra sì. E poi, mi piace quando si investe nei propri campionati d'origine. Gli inglesi dovrebbero fare leggi per impedire l'arrivo di altri investitori stranieri, così come accade in Germania, dove uno straniero non può controllare più del 50% della società. In Francia gli stadi sono di proprietà dei comuni locali. A me piace il modello invece del Barcellona, tifosi azionisti, e non ci può essere un proprietario straniero. Grande, ha detto Platini. Dobbiamo poi anche proteggere le nazionali. La Commissione europea ha stabilito che uno straniero, dopo un certo periodo di soggiorno, può giocare per quella nazionale. Noi non siamo d'accordo che Didier Drogba indossi la maglia dell'Inghilterra. E infine, Capello è un bravo tecnico e l'Inghilterra lo ha chiamato per vincere, ma io continuo a preferire un tecnico francese per la nazionale francese. Ripeto, nulla di inedito, ma insomma ha detto, mi pare, in maniera un tantinello più vivace. Sì, un tantinello più vivace. Lui definisce stupidi, se non ho sentito male, Gigi, quelli che... dovessero acquistare club così indebitati, giusto? Sì, chi sarebbe così curioso, stupido? Sarebbe curioso chiedere a Platini come definisce chi li ha indebitati così tanto. Cioè, certo. Se uno è stupido a comprare, ma allora chi li ha indebitati, sì, così io tanto? Io credo che, conoscendo Platini, credo che la risposta sia incorporata in questo messaggio. No, ma lo immagino, era retorica la mia domanda. Infatti. Molte cose interessanti. Un po' troppo protezionismo, a parer mio, nel senso che... va benissimo sulle nazionali, il fatto di proteggere le nazionali, di far crescere i vivai e soprattutto di evitare che accada come nel rugby, dove davvero molte nazionali, non ultima quella italiana, ormai di italiano hanno ben poco. Devo dire, insomma, che sul fatto dell'allenatore, sì, certo è meglio avere un allenatore indigeno, questo non c'è dubbio. Devo dire che, visti gli allenatori inglesi che girano per la Premier League, forse Almeno per l'Inghilterra. Potrebbe essere un problema loro questo, se si tornasse a un calcio più protezionista. Anche la Francia avrebbe un problema. Sì, certo, ma ce l'ha la Francia. Un calcio più protezionista vorrebbe Platini in ambito di nazionali, non certamente in ambito di club. In ambito di club vorrebbe semplicemente un calcio più sano. C'è una risposta dell'Inter a Platini, visto che Platini ha fatto il nome di Moratti, e la risposta è: l'Inter non è una società indebitata. Comprendiamo le preoccupazioni istituzionali di Platini per l'economia del calcio europeo, ma citando l'Inter nei suoi ragionamenti dimentica che il nostro club non ha debiti con le banche. L'Inter non rientra dunque nell'ambito di quei club che da questo punto di vista possono preoccupare il presidente UEFA. Arriviamo alla giornata. Beh, intanto segnalo, come faccio sempre quando gli ascoltatori ci dicono che hanno problemi di ricezione, in provincia di Modena, per esempio, zona già quasi mantovana, Reggio Emilia, ci sono altre radio inserite sulle nostre frequenze, vediamo se riusciamo a rimediare, come spesso accade o quasi sempre accade in tempo reale. Fabio, la giornata di stasera, Reale Juventus, cioè Milan e Juventus, comincerei dai risultati che servono alle italiane, guardando un pochino la situazione di classifica. Banalmente Gigi vincere, ma perché banalmente? Perché intanto il Milan deve ancora, cioè sconta quella sconfitta casalinga pazzesca contro lo Zurigo. Il Milan ha giocato 3 partite, ne ha vinte 2 fuori e una in casa. Stasera gioca in casa e quindi giocherà 2 partite in casa e una fuori nella fase discendente del girone. E quindi è evidente che insomma 3 punti questa sera vorrebbero dire di fatto la qualificazione, anche se poi bisogna vedere cosa succede tra Zurigo e Marsiglia, però vorrebbe dire avere comunque la certezza di non essere, con la quasi certezza poi di essersi messo dietro il Real Madrid, e se ti sei messo dietro il Real Madrid è molto probabile che, certo, la qualificazione sia intatta. Mi stavo chiedendo se al Milan tutto sommato non potrebbe bastare anche un pareggio. Se pareggiassero Zurigo e Marsiglia sì, se come credo vincerà il Marsiglia no, perché il Marsiglia andrà a 6 punti, poi è chiaro il Milan e il Marsiglia ce l'avrà in casa. e il Milan dovrà giocare a Zurigo, cioè è chiaro che il Milan non deve perdere, ecco, un questo, pareggio può essere questo un buon mi sembra comunque, certamente non deve perdere, altrimenti si fa avvicinare o addirittura agganciare dal Marsiglia, fermo restando che poi il Milan avrà comunque il match a San Siro contro i francesi dopo averli già battuti all'andata, e comunque poi avrà una partita a Zurigo che, insomma, se il calcio è ancora quello che conosciamo, non dovrebbe essere un turmale per il Milan. L'importante è non perdere, questo sicuro. Mentre mi pare che la vittoria sia un po' più necessaria per la Juventus, vedendo la situazione del girone. Sì, per due motivi. Il primo è perché il Maccabi Haifa sta perdendo con tutti e quindi è importante che la Juventus questi tre punti, che sono quasi certi, li porti a casa. Nel senso che se ci dovesse essere una squadra nelle prossime tre partite a non vincere col Maccabi Haifa, pagherebbe carissimo questo. E quindi sarebbero due punti che mancano e costringerebbero a magari una rincorsa. La Juventus ha un punto più del Bayern di Monaco e sa anche di avere il match casalingo poi di ritorno, quindi è in una buona situazione. Sa anche che con 8 punti a 2 giornate dalla fine si può essere, non dico tranquilli, ma abbastanza. Farà un grande tifo per il Bordeaux questa sera, perché insomma, se il Bordeaux dovesse battere il Bayern di Monaco o comunque non perdere contro il Bayern di Monaco, accoppiato con una vittoria della Juve, la Juve sarebbe a 8 punti e quindi, cioè, starebbe in una situazione con 3 o 4 punti di vantaggio sul Bayern di Monaco, che in 2 giornate sono abbastanza difficili da recuperare. Però è fondamentale vincere e non pareggiare, perché davvero il Maccabi Haifa non ha ancora fatto un punto e non ha ancora segnato un gol, quindi prima o poi un gol lo farà, insomma, in 6 partite prima o poi un gol lo fa. Insomma, se riesce a prendere un pareggio a una delle 3 squadre che lottano per il passaggio del turno, la elimina di fatto. Sempre. Probabilmente la elimina. I numeri dicono, come ci hai ricordato, che trattasi di squadra materasso, ma certamente a Torino squadra poi così materasso non è sembrata, se il migliore in campo tra i migliori in campo era stato Buffon, no? Sì, a inizio partita su Valisvili e poi anche nel finale Buffon ha compiuto delle parate certamente determinanti. È ovvio che quando hai un portiere come Buffon il suo peso lo senti anche in questo. Diciamo che la Juventus non avrebbe dovuto concedere al Maccabi Haifa queste chance, poi il Maccabi è rimasto anche in 10 per l'espulsione di Dutra. Non è stata una partita facilissima quella contro il Maccabi, forse anche meglio, Gigi, nel senso che fosse stato un 3-4-0 facile, magari la tensione della Juve oggi potrebbe essere minore. Calata, invece, certo. Invece la Juve va a Tel Aviv per vincere, deve farlo, sa benissimo che non farlo le potrebbe costare molto caro. Che Real è invece, dato che Real lo si conosce bene, non dico a memoria ma bene, che genere di Real è quello che arriva a San Siro in una situazione psicologica delle due squadre completamente capovolta rispetto a 2 settimane fa? Perché 2 settimane fa insomma, il Milan doveva fare un miracolo a Madrid e lo ha fatto. Stavolta il miracolo tocca al Real, nel senso che almeno a me il Milan pare, a parità di ritmi lenti, mi pare molto ma molto più squadra di questo Real Madrid. Ma anche perché il Milan viene da lontano, nel senso che il Milan ha una traccia di gioco e ha un nucleo storico di giocatori che viene davvero dalla notte dei tempi rispetto al Real Madrid, che invece è una squadra assemblata, non dico a casaccio, ma in maniera un po' episodica tutti gli anni. E in questo momento, a maggior ragione, il lavoro di Pellegrini è un lavoro complicatissimo, nel senso che deve tener conto di troppe varianti per mettere in campo una squadra equilibrata. La verità è che in campionato poi la situazione per il Real Madrid è paradossalmente migliorata, visto che contro il Getafe ha vinto, pur essendo in 10 per gran parte della partita, e ha sfruttato il pareggio del Barcellona con l'Osasuna, quindi di fatto si è riportata a -1. Non è una squadra in difficoltà in campionato, è una squadra che ha preso 4 gol dall'Alcorcón in Coppa del Re, e questa è stata una vergüenza davvero, davvero difficile da parlare. E credo che a Florentino Perez veramente questo sia un affronto che i giocatori e l'allenatore non gli dovevano fare, e che quindi, insomma, il giorno in cui deciderà di prendere dei provvedimenti, la sconfitta con l'Alcorcón gli resterà molto impressa. Detto questo, il Real Madrid ragionevolmente non rischia questa sera di andare fuori dalla Champions, rischia nel senso che se dovesse perdere e una delle due tra Marsiglia e Zurigo arrivagli addosso a 6 punti, diventerebbero decisive le prossime 2 partite. Ma io non credo che il Real Madrid rischi di non passare. Questo è un girone molto facile per Milan e Real Madrid. Certo, perdere 2 confronti diretti contro il Milan aprirebbe una crepa pesante, intanto perché questa è una settimana delicata. Sabato c'è anche il derby di Madrid con un Atletico disastroso che non vince il derby da una vita. però sai, i derby prima o poi capita che lo vinci, e quindi potrebbero essere davvero gli ultimi giorni di Pellegrini se dovesse bucare tutte e due queste partite, ma magari sarebbe anche un vantaggio, io questo non lo so, non lo voglio dire, però è un Real Madrid che secondo me questa sera è molto più temibile di quello che sento dire in giro e sento leggere in giro. Mi sbaglierò, ma ho la sensazione che il Real Madrid possa essere un osso un po' più duro da mordere rispetto alla settimana scorsa, quando un po' tutti si pensava, la stampa spagnola in primis e anche qualche protagonista, che fosse un piccolo pesciolino da pescare il Milan, che arrivava da un brutto momento. Adesso le parti sono invertite, io ho la sensazione che il Real Madrid, soprattutto vedendo che tipo di formazione metterà in campo Pellegrini questa sera, si sia un po' ravveduto e che magari quella posizione di Marcelo sulla seconda linea, cioè sulla linea dei centrocampisti, sia già un segnale di... non voglio dire ravvedimento tattico, perché è difficile parlare di ravvedimento tattico al Real Madrid, però di un raziocinio certo. Migliore. Fermo restando che il Milan di questi giorni è un Milan davvero sontuoso, insomma. Due coppie di esterni, Ramos e Kakà a destra, Albelda dietro e Marcelo a sinistra, due centrali di centrocampo, Alonso e uno dei due di Arrà, e due punte che sono Higuaín e Benzema, a meno che all'ultimo Raul non minchia il ballottaggio con uno dei due. Farei subito una proiezione su domani, parlando sempre di risultati indispensabili o utili come minimo per le italiane. Beh, la Fiorentina col De Bresseni magari ci risparmiamo anche del tempo, nel senso che è un pronostico chiuso, credo, quello a vantaggio della Fiorentina. E visto che il Liverpool nel frattempo va a Lione, addirittura la Fiorentina potrebbe non chiudere matematicamente, ma insomma fare un salto decisivo domani sera per la qualificazione, se non sbaglio, no? Il Lione ha 9 punti, se vince va a 12 e ha chiuso completamente i conti. La Fiorentina ragionevolmente andrà a 9, avrà 6 punti di vantaggio sul Liverpool a 2 partite dalla fine, fermo restando che poi comunque la Fiorentina dovrà giocare contro il Lione in casa, ormai già passato, certo. In casa e comunque la Fiorentina, il sì. Liverpool deve ancora battere la Fiorentina. Infatti dicevo, risparmiamo tempo, che la Fiorentina vincendo domani sera, e sinceramente faccio fatica a pensare che possa non vincere, non dico che chiuda la pratica, ma quasi. Mentre all'Inter, torniamo alle situazioni tipo Juve, ma questa è anche più grave, il pari non basta domani. No, perché vorrebbe dire nella migliore delle ipotesi, e cioè nel momento in cui l'Inter pareggiasse, arriverebbe a quota 4, però comunque rimarrebbe un punto sotto la Dinamo, e poi al massimo potrebbe agganciare Rubin Kazan a quota 4, ma il Barcellona andrebbe a 5, sapendo che poi l'Inter deve giocare a Barcellona. L'Inter deve vincere e sperare che il Barcellona vinca, in modo che il Barcellona si metta un po' più tranquillo e vada a quota 7, e soprattutto il Rubin Kazan vada a 4. Se l'Inter vince se ne mette dietro 2 e da quarta diventa seconda, e quindi è normale che quello è il risultato. Tutti gli altri risultati diversi dalla vittoria sono molto molto preoccupanti, anche perché l'Inter non vince in Champions League da troppo tempo, e a questo punto diciamo che gli indizi superano abbondantemente la quota minima per fare delle prove. Ambientalmente è molto difficile, però l'Inter è più forte della Dinamo Kiev. Inter probabilmente meritava di perdere in casa con la Dinamo, però l'Inter è una squadra più forte della Dinamo Kiev, e quindi io credo che debba andare a giocare non la partita che ha giocato a Livorno, ma una partita molto saggia e intelligente, ma soprattutto che la vinca. Sì, con il Livorno credo che potrebbe non bastare. No, perché... Qualcosa di più penso che servirà. Allora, panorama completo, se non sbaglio, oltre alle... Comunque, completo e quindi con tutte, Bayer Bordeaux, Maccabi Juventus, Manchester United, CSKA, Besiktas Wolfsburg, Milan Real Madrid, Marsiglia Zurigo, a poi il Porto, Atletico Madrid, Chelsea. Come sempre il giochino è togli le italiane e scegli un'altra partita da seguire. Ma io guarderei Bayer di Monaco-Bordeaux, perché comunque interessa la Juventus, perché comunque torna Luca Toni. Il Bayer di Monaco ha fuori Ribéry, ha fuori Müller che è squalificato, fuori Van Buyten... Il Bordeaux comunque è la squadra capolista del girone, quindi sarei molto curioso di andare all'Allianz Arena. Credo anche che la partita tra l'Atletico Madrid e il Chelsea sia interessante, anche se in questo momento davvero la cura di Quique Sanchez Flores deve ancora far passare la nottata e il Chelsea può chiudere i conti. Credo che il Manchester United potrebbe avere qualche problema col CSKA se Rooney volesse cambiare i pannolini al suo bimbo che è nato ieri e non giocasse, perché ieri non si è allenato. È in dubbio anche Berbatov, quindi magari il Manchester potrebbe avere un minimo di difficoltà in più in attacco. Parlando di pannolini neonati, che a Buffon non venga in mente di tornare a casa a vedere il suo, perché sennò per la Juve si mette male, non... Decisamente no, Buffon deve giocare sempre e comunque, anche col pannolino in mano. Ci torna giovedì, insomma. Pannolino al posto dei guantoni. A vedere il secondo genito, certo. Sì. Grazie Fabio. A voi, a presto. Ci sentiamo giovedì per il riassunto finale di quello che sarà accaduto in questi due giorni. Potremmo ascoltare già il primo intervento di oggi, che per esempio arriva da Lucca. Alberto, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Il suo parere sulla notizia di stamattina. Platini avrebbe detto testualmente, in testuali parole, chi sarebbe così stupido da comprare l'Inter con i debiti che ha? Volevo il suo parere, se è normale che un presidente dell'UEFA si permetta certe affermazioni. Ho aperto il programma di oggi con la frase che non è questa. Questo è il titolo con cui l'ANSA ha lanciato questa agenzia. La frase di Platini è: introducendo nuove regole proteggeremo gli investimenti di Abramovic, di Moratti e di Glazer. Sono sicuro che vorrebbero vendere, ma chi mai sarebbe così stupido da acquistare club così indebitati? Mi sembra un pochino diversa. Poi l'Inter si è sentita, giustamente a parer mio, chiamata in causa e ha replicato dicendo: l'Inter non è una società indebitata, non abbiamo debiti con banche. Sappiamo delle ricapitalizzazioni continue, direi ininterrotte, di Moratti, l'ultima di 70 milioni di euro della scorsa settimana. Credo che Platini probabilmente non ci sono gli stupidi tali da acquistare club così indebitati. Io le posso garantire che Platini è tutt'altro che stupido e quindi non avrebbe mai usato questa locuzione così diretta, che invece una titolazione frettolosa di un'agenzia di stampa gli ha attribuito. Ha chiamato Domenico da Frosinone, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Sono Domenico, chiedo scusa per linea, ma qui c'è un atto temporale, chiedo scusa. Sì, una tragedia addirittura. Purtroppo io sono un pastore, sono al scoperto, purtroppo non ho la fortuna di chiamare a casa, grazie per... Senta Garanzini, io volevo chiedere un attimino, lei che è una persona così preparata per il Frosinone, partito alla grande, un paio di partite ha steccato, secondo lei prospettive? Grazie, l'ascolto per radio. Grazie a lei Domenico, mi ha dato sinceramente un brivido di emozione. Un pastore, è ancora in linea? Se, no, mi spiace, ha già messo giù. Il Frosinone è partito come meglio non si poteva, è durato quanto ha potuto, adesso ha perso due partite di fila, ha accusato una flessione, stava vivendo probabilmente un tantino al di sopra delle proprie risorse, no? Da un punto di vista di risultati, però giocava e gioca a calcio bene, in maniera divertente, io credo che qualcosa di buono riuscirà a fare ancora. Poi non mi chiedi i risultati pronostici, perché non sono il mio genere, neanche per le squadre che conosco bene. Frosinone lo conosco solo così, un po' di lontano, un po' per simpatia con quello che ha combinato nella prima parte di stagione. Un paio di vigilie, alternandole magari ai vostri interventi, cominciando da quella della Juventus, Ferrara. Ci deve essere, secondo me, la giusta carica, la giusta attenzione. Non la rabbia per rifarsi di un risultato che ormai è già stato messo da parte, ma più che altro per quello che è la nostra classifica, il nostro cammino in Champions. Quindi è quella l'attenzione, più che un motivo di rivalsa. Il dibattito sulla pubblicità si amplia. Stefano scrive da Cremona: è vero ciò che lei dice sulla pubblicità, ma una trasmissione così dinamica, grazie per il dinamico, meriterebbe almeno mezz'ora in più per maggiori approfondimenti. Questo magari potrebbe essere un altro ragionamento, lo faremo non certamente adesso perché i palinsesti non si cambiano in corsa, ma magari proviamo a pensarci per gennaio oppure per la prossima stagione, a patto, ripeto, che la benedetta pubblicità continui a essere tanta, perché questo è il presupposto per andare avanti bene. Antonio da Novara, buongiorno. Oh, buongiorno Garanzini, sono contento anche nel giorno del mio compleanno parlare con lei. Volevo dirle una considerazione, parlando sempre, tornando un po' indietro nel calcio, magari quello più giocato, che tanto di parole ne sento tanto. E il Novara, che oggi ho letto sulla Gazzetta, sono contentissimo, io sei di Novara, ha preso Ventola. Ha sentito? Con la S davanti o no? Ventola proprio, Nicola, sì. Ventola. Che giocava nel Torino. E poi volevo raccontarle un aneddoto. Ieri sera ero da mio padre e gli ho detto: ma perché alle 2 non accendi il radio sulle 24 che c'è Gigi Ganzini? Sarò mi ha detto da Monoverese. Ah, ma è ancora vir? Che questo allunga sicuramente. Antonio, io guardi, non posso che ricambiare con gli auguri più sentiti per il suo prezioso geriatriaco. Grazie Antonio. Andiamo a sentire un'altra voce di vigilia. Io per esempio non conosco molto bene il passo doble di Ronaldinho, ma la voce è pochino. Sentiamo Ronaldinho. Io voglio fare gol, io voglio fare assist, ma nel momento è così, io sono felice di aiutare tutti gli altri compagni quando faccio dei assist, ma io voglio fare il mio meglio, fare gol, fare assist, questo è che io voglio. Ti gratifica questo momento? Sì, sono felice per fare questo, di fare assist, di aiutare a fare marcaggio, sono felice per questo momento. Il calcio è così, è il momento, adesso mi sento bene e buono, sono felice. E adesso ho lavorato bene, ho trovato tempo per lavorare, un allenatore che mi aiuta, un preparatore fisico che mi fa lavorare bene, e tutto questo mi fa entrare in campo bene, al 100% per pensare e il corpo rispondere. Per questo che oggi le cose vanno più facili quando sono in campo. Allenatore che mi aiuta, ha detto Ronaldinho. Beh, forse non a parlare italiano, io credo, perché viste le comuni origini brasiliane, insomma, tra le cinque lingue parlate da Leonardo, tra cui un italiano perfetto, e l'italiano di Ronaldinho, insomma, un po' di differenza c'è. Pietro, oggi è una trasmissione interattiva. Pietro scrive: faccio i complimenti da parte mia al pastore di Frosinone per l'intervento breve e chiaro, come lei da tempo chiede a chi partecipa. In effetti sono d'accordissimo con lei, Pietro. Un saluto affettuoso davvero a quel pastore di Frosinone che se vorrà tornare a intervenire al nostro programma oggi, no, non dico oggi, ma insomma quando avrà piacere di farlo, sappia che troverà da rosa al centralino, a cui lo segnalo sin da ora, una corsia preferenziale, anche per saperne di più sulle sue, come dire, modalità di ascolto, no? Di questo programma. Bruno ha chiamato da Sassari, buongiorno. Sì, chiamo dalla provincia di Sassari. Sì. Allora, io sono un tifoso del Cagliari, che quest'anno si sta comportando abbastanza bene. E volevo parlare dei presidenti, voi parlate sempre di Moratti, dei presidenti dei club più grossi che ci sono, però anche Cellino, secondo me, capisce di calcio. Già l'anno scorso, quando dopo le prime cinque giornate aveva zero punti, non esonerò Allegri. Verissimo. E lui era famoso per esonerare il generatore addirittura alla prima partita. Perciò io voglio dire, e poi con dei risultati come poi i giocatori che ha procurato a poche lire, quest'anno adesso c'è Marchetti, dopo aver venduto Suazo, adesso ci abbiamo cosa ne pensa di un presidente? Penso che Cellino sia rinsavito, perché per alcuni anni si è comportato davvero come i nuovi ricchi fascisti, no? Che arrivano con la S davanti, mi raccomando, che arrivano sulla insomma, a gestire una società di calcio e lo fanno in maniera capricciosa, dispotica, avventuristica, e poi aggiunga lei gli aggettivi che crede. Poi è vero, lei ha detto bene, la svolta un anno fa, quando aveva già avuto buon fiuto a richiamare Ballardini, perché insomma, questo Cagliari di Allegri nasce anche dal grande lavoro di Ballardini nella parte finale della stagione precedente. Però quando lo scorso anno davvero Allegri perse le prime cinque partite consecutive, insomma, un Cellino enorme. Infatti noi a ogni sconfitta ci chiedeva: ma quando è che, no? Perché il toto cacciata non aveva quota addirittura, e invece Cellino ha avuto pazienza e il Cagliari ha fatto lo scorso anno forse la miglior stagione, senza forse la miglior stagione da tantissimi anni a sta parte. Quest'anno la sta ripetendo, sembra che, poi magari ci sarà un po' di geografia in questo, ma sembra che sia da ascrivere a Cellino anche il merito dell'acquisto di Nenè, che indubbiamente è uno di qualità, è uno che la porta, la vede, ed è uno che non era facile togliere a squadre più titolate andando a scovarlo, e quindi evidentemente, ripeto, Cellino è inserito per il bene di un Cagliari che sta andando di nuovo in maniera molto ma molto positiva anche quest'anno. Giorgio, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, due veloci sulla testa del tifoso e sulle restrizioni che prende l'osservatorio. Io sono un tifoso interista. Domenica, per la gara contro la Roma, l'osservatorio ha vietato la trasferta ai tifosi romani e ha vietato la vendita libera dei biglietti degli altri settori per la Regione Lazio. Questo divieto è stato fatto anche ai tifosi interisti che hanno sottoscritto la tessera del tifoso. Ora io mi chiedo, cioè questa tessera sono stati chiesti dei soldi per farla, se non serve in queste occasioni, quando serve? La seconda, durante la partita della Juve con Napoli sono successi degli episodi di violenza tra tifosi napoletani e juventini perché non... questi tifosi erano mischiati ai tifosi giuventini in altri settori, dato che il settore ospiti era chiuso. Questa cosa era successa anche a Milano 3 anni fa. Non penso che ci voglia un genio a capire che i tifosi napoletani probabilmente vivono anche a Torino, vivono in tutto il nord, dato che per la migrazione avvenuta negli anni 60 si sono spostati in molti. Mi chiedo se a volte fanno apposta per creare questi disagi oppure, no, dato che penso che ci sia gente che ha studiato. No, apposta non fanno, gli riesce benissimo così, guardi, in maniera involontaria, stia pur certo che... E d'altra parte non è facile controllare i flussi un pochino alla cieca. Questa è tutta una materia, a cominciare dalla sua prima domanda. E cioè quando serve la tessera, che cosa serve la tessera, è tutta una fase di studio. Ancora sembrava che questo documento, per quel che può o potrà valere, fosse il traguardo, invece poi il traguardo si è allontanato, adesso si parla della stagione prossima avventura, bisognerà vedere se davvero sarà così, perché certezze al momento non ce ne sono davvero. Mentre leggeva l'intervista a Platini, scrive Sergio, rilasciata a un giornale d'oltremanica che ricordo essere, dov'è che l'ho perso, il Daily Telegraph, mi è venuto in mente che Platini è un grande, perché va in Inghilterra e spara duro contro il gestione inglese, va in Spagna a vedere Real Milan e se la prende altrettanto duramente contro la campagna acquisti di Florentino Perez, non cerca applausi o benevolenze ma cerca cose giuste. E se lo metto a confronto con i dirigenti calcistici italiani di qualsiasi parte politica o calcistica essi appartengono, anche politica, dice, e lo paragono al presidente dell'UEFA, non so se mettermi a ridere o a piangere. Che Dio ci conservi a lungo, Platini. Buona giornata. Sergio, io leggo volentieri il suo nome, faccio un po' più di fatica a leggere la città, il paese da cui lei ha scritto, che è Arcore, perché sembra quasi che ci sia un doppio senso, e invece questa mail è firmata Sergio da Arcore ed è qui evidentemente a disposizione. Ci sono sovversivi dappertutto in questo paese. Sembra ieri. 3 novembre 1976. Il Torino esce a testa alta dall'unica Coppa dei Campioni mai disputata. Lo elimina al secondo turno il Borussia Mönchengladbach, all'epoca una delle più forti squadre europee. Dopo aver perso in casa per 2-1, la missione dei Granata è resa ancora più difficile dalle assenze per infortunio di Pecci e Claudio Sala. L'arbitro belga Delcourt complica ulteriormente la situazione espellendo prima Caporale, quindi Zaccarelli e infine il portiere Castellini. Negli ultimi 20 minuti la porta del Toro è difesa dall'attaccante Ciccio Graziani, ma i tedeschi non passano nemmeno in 11 contro 8. Finisce 0-0. L'avventura granata nella massima competizione europea si chiude con un'impresa incredibile. Sì, è vero, un'impresa poi amara perché non portò alla qualificazione. È vero anche che io ricordo quella partita per ragioni anagrafiche, è vero che il Borussia... nel finale poi si accontentò avendo un 2-1 fuori casa all'andata, non rischiava nulla, nemmeno avesse subito un gol, certo se ne subiva due cambiava, ma rimane il fatto che in 8 contro 11 in campo avverso e contro la miglior squadra europea di allora, o una delle migliori, che era quel Borussia di Mönchengladbach di Bonhoff, di Heynckes, di grandissimi giocatori, quella fu nel suo genere, con Graziani in porta, nel suo genere fu 1-0-0, fu una grande impresa. Torniamo ai nostri amici già collegati. Bruno da Prato, buongiorno. Sì, salve Garanzini, le dica. Confermo i problemi di ricezione nella zona di Reggio Emilia. Ma gliene aggiungo, mi scusi, è già che ci siamo, gliene aggiungo perché servono a disegnerazione, gliene aggiungo a Fabriano, per esempio, in provincia di Ancona, c'è un problema anche lì. E, boh, speriamo bene. Dica. Niente, la chiamai per puro caso una settimana prima che scoppiasse i calciopoli e le chiesi all'epoca cosa pensasse della credibilità della classe arbitrale. Convenì con me all'epoca che la credibilità sotto i tacchi. Nel frattempo passati 4 anni. E non pensa che si sia persa un'occasione con calciopoli per aiutare anche la classe arbitrale a conquistarsela questa credibilità, per esempio scorporando l'AIA dalla FIGC in maniera completa e per esempio dando la possibilità agli arbitri di parlare anche dei loro errori, del loro punto di vista e di come la pensano, di come perché hanno preso una decisione piuttosto che un'altra. Tutto qua, che ne pensa? Ma io sul diritto, no, il diritto di parola per carità è inalienabile, ci mancherebbe se parliamo di diritto di parola in generale, sì. Se parliamo di arbitri, io francamente sento già troppe interviste, io non sento nessuna intervista di dopo partita perché, come mi è capitato di dire altre volte, ormai da anni l'audio si azzera. Spesso anche durante la partita, quando ci sono certe telecronache, ma insomma, in ogni caso a un minuto dopo la fine. E quindi, credo che a chi invece le interviste e le pratiche infligger loro anche quelle degli arbitri, oltre a quelle di presidenti in cerca di ribalte, e di dirigenti più o meno avvelenati, di allenatori che dicono poco, di opinionisti irresistibili, insomma, io. Sinceramente questo mi lascerebbe abbastanza freddo. Se invece parliamo del vecchio progetto di liberare gli arbitri da una dipendenza comunque che c'è rispetto alla federazione, quindi rispetto al potere calcistico, e di farne una federazione davvero completamente indipendente che comprenda magari tutti gli arbitri e tutti i direttori di gara e i giudici di gara di tutte le discipline sportive. Ecco, se parliamo di una riforma del genere, quella sarebbe da studiare, da approfondire, da mettere a fuoco come si deve, ma quella secondo me sarebbe sempre la benvenuta, questo sì. Ieri ha parlato, vi dicevo che erano arrivate in anticipazione all'agenzia, ha parlato Spalletti dopo un lungo silenzio, seguito al suo esonero dalla Roma. Abbiamo ricavato un frammento, sentiamo. La nazionale penso sia un'aspirazione di tutti quelli che fanno il mio lavoro e di conseguenza penso di essere pronto, però è un mio pensiero, poi ci sarà anche il giudizio degli altri. Ci sono molti allenatori in Italia che allenano i nazionali stranieri, per cui è un'apertura che anch'io mi concedo. Beh, un'apertura, un'autocandidatura se vogliamo, ma certamente non di cattivo gusto. Tra l'altro, insomma, è abbastanza noto che, ma è noto anche in federazione, mi risulta, che al termine dell'avventura in Sudafrica Lippi lascerà un'altra volta la nazionale, e quindi è abbastanza normale che allenatori di grido come Spalletti, che tra l'altro non dimentichiamo hanno benemerenze anche estetiche nel nostro calcio, per come la Roma ha giocato nelle prime stagioni di Spalletti, sono belle candidature per la nazionale questa, anche se magari al momento sono delle autocandidature. Scrive Lorenzo da Mestre, che ce l'ha con Cannavaro. Lui dice, scrive, mi sembra sia sempre in ritardo negli interventi, sui calci da fermo, nelle azioni in movimento. Qualcuno potrà farmi osservare che in ogni partita lo si vede fare salvataggi mirabolanti, ma nessuno si accorge che questi sono sprazzi di classe che compensano il fatto che non riesce più a essere fisicamente all'altezza degli avversari. Questo è il Cannavaro che vedo giocare a settembre, un giocatore da tempo sul viale del tramonto che ci si ostina a continuare a far giocare sia in nazionale che nella Juventus, togliendo il posto alle Grottaglie, che mi rassicurerebbe molto di più. Questo è il punto di vista di Lorenzo da Mestre. E sì, stiamo avviandoci verso la chiusura dell'appuntamento di oggi. Sentirei ancora, poi abbiamo ancora un ascoltatore finale, sentirei ancora la vigilia di Leonardo di questo Milan-Real Madrid di stasera. Credo che sia un momento positivo. Dopo, sai, queste partite qua hanno sempre una storia quasi a sé. È vero che gli ultimi risultati sono buoni, credo che sono cose molto positive, però un'atmosfera intorno a una partita del genere si crea un po' da sola, per quello è sempre il momento giusto una partita del genere. Giocando due partite così ravvicinate, credo che sia un po' normale che ci sia un considerare veramente, diciamo, l'ultima partita, no? Come un punto di riferimento per tutti. Credo che sia un po' naturale. Credo anche che ci sia, diciamo, un modo di giocare che non puoi stravolgere né una squadra né l'altra. Per quello credo che sarà una partita degna da Milan-Real Madrid. Un tempo, c'è un problema, no? È caduta la linea con l'ascoltatore, no, vedevo i segnali strani. È caduta la linea con un ascoltatore che era già in linea. Leggo allora qualche messaggio. Beh, sono altri messaggi inquietanti per la ricezione di oggi. Gubbio, Gualdo Tadino, Folina, Spoleto, Todi, Umbertide, cioè tutta la zona, tutta questa magnifica zona umbra, quasi in direzione Marche, o Marche in parte, anzi, hanno problemi. E poi ci sono altri che scrivono. Ah, ecco, a proposito dell'intervento del cagliaritano di prima, Gabriele segnala a Trieste che il Cagliari ha già anche acquistato il miglior portiere della Serie B, Agazzi, della Triestina. Io non sono praticissimo di portiere in Serie B, sto sulla fiducia. Questo comunque riguarda il portiere della Triestina, è un messaggio che arriva da Trieste. Sì, mi pare che siamo arrivati alla fine dell'appuntamento anche di oggi. Nel frattempo i ringraziamenti vanno a Roberto Scaltritti, che ha diretto la parte tecnica, a Franco Piantanida, che ha assistito Flavio Suardi in redazione. L'appuntamento con A Tempo di Sport è regolarmente per domani.